abbiamo iniziato proprio col botto. Benvenute e benvenuti di nuovo a Radio ZM con una nuova puntata delle Ribelli. Siamo tornate in radio e vi auguriamo una buona serata e un buon ascolto, speriamo. E siamo qua per tenervi un po' compagnia con delle tematiche molto interessanti. Esatto, la pillola, la puntata di oggi riguarda il revenge porn e quindi avremo modo in queste due ore di raccontarvi che cos'è, che effetti ha e anche dal punto di vista legale, e ne parleremo insieme a delle compagne e delle amiche che sentiremo durante le nostre ore insieme. Sì, è una puntata abbastanza importante, ecco. Sì, corposa e anche complessa, direi. È complessa, sono dei temi molto delicati ma molto importanti, e visto anche quello che sta succedendo ultimamente sono tematiche che vanno affrontate anche appunto un po' di petto, sì, con forza. Ricordiamoci che dal punto di vista musicale avremo le tracce scelte da le DJ e DJ Utopia. Grazie, ringraziamo. Grazie alle nostre DJ. Questa sera è tutta italiana la playlist, completamente italiana. E vi ricordo subito, così poi non me lo devono ricordare, che quando uscirà il podcast ci sarà tutta la tracklist, quindi potete recuperare ogni singolo titolo dal nostro podcast. E appunto abbiamo iniziato con Il Genio, un gruppo apparso qualche anno fa, ha fatto questa bellissima canzone e poi è sparito. E vabbè, era divertente, mi sono venuti già in mente un sacco di ricordi legati a quel periodo. E niente, direi di lanciare la seconda canzone, che anche questa ci dà una bella carica, e poi inizieremo con tutti i nostri vari interventi. Dai, ecco il liberato. Oddio. Pronto, come stai? Non urli, attacca. Baby, I'm so high e non saccio con chi stai. Rinda sta bucina, pierdo su una fantasia. Baby, tell me why, ti voglio bene assai. Pronto, come stai? Mo che chiagna fa? Mo stungo con una e non saccio che già fa. Non è gelosia, ti via da vita mia. Baby, tell me why, ti voglio bene assai. All night, baby, tell me why it's about you been aside. All night, baby, tell me why it's about you been aside. Baby, tell me why it's a voyage been outside. Quando come stai, mo lo chiagna fa. Mostro un locuma che non sa ciò che già fa. Non è gelosia, baby, ha capitato mia. Baby, tell me why it's a voyage been outside. dall'anima, can't you see? Usaccio e gavarte rimanendo un governo vai. Una volta riciste una cosa non da scordare mai. Con l'occhio vitale smeralda il mio cuore va via. Riciste tu sei e te voglio ben assai. Oh my, dammi, dammi why. Baby tell me why. E te voglio ben assai. Oh my, dammi, dammi why. Baby tell me why. E te voglio ben assai. So high e non saccio con chi stai. Renda sta buci e pierdo su una fantasia. Baby tell me why. E te voglio bene. Baby tell me why. E te voglio bene assai. Rieccoci qua. Eccoci. Pronte a cominciare questa importante puntata. Quante P. Allora introduco il primo intervento della mia compagna Martina, che è qua con me in radio, e ci leggerà un testo per introdurci appunto il tema della serata, che si focalizzerà sul revenge porn, per darci almeno un'infarinatura e poi approfondire con altre compagne. E legge dal sito internet Le Viole di Marzo, così anche chi volesse magari consultarlo dopo. Sì, esatto. Le Viole di Marzo ce le ha consigliate Tecla, che dopo sentiremo. Ringraziamo Le Viole di Marzo che ci hanno dato questa possibilità e che ci stanno ascoltando. E, io leggerò un loro pezzo e intanto vi dico chi sono Le Viole di Marzo. Come si presentano? Sono due ragazze qualsiasi che hanno trovato in comune ideali e stati d'animo, che secondo loro sono nascosti in ognuno. E hanno una pagina Instagram, Le Viole di Marzo, oppure una mail, violedimarzo.5@gmail.com. Questo per tutti voi, in caso le vogliate seguire. Dunque, loro hanno scritto un pezzo molto interessante il 4 aprile, qualche settimana fa, sul revenge porn e la cultura dello stupro. Ve ne leggo un pezzo. Il revenge porn, pornografia non consensuale, è parte di un ampio fenomeno non necessariamente connesso a vendetta di relazione e che attiene alla condivisione o diffusione digitale senza il consenso della persona ritratta di immagini di carattere sessuale, immagini riprese consensualmente o volontariamente nel corso di un rapporto sessuale o di un atto sessuale, ma destinata a rimanere privata o ad essere condivisa privatamente. Immagini carpite da telecamere nascoste, immagini sottratte da dispositivi elettronici, immagini riprese nel corso di una violenza sessuale. Nel 90% dei casi le vittime sono donne, ma anche i minori sono molto spesso coinvolti in questo fenomeno. Nel 50% dei casi le vittime contemplano il suicidio e spesso i video o foto personali sono allegati al nome o ai profili social della vittima, che quindi subirà conseguenze in ogni ambito della propria vita. In Italia il revenge porn è diventato un reato e mi fermo qui un attimo perché dopo in realtà sentiremo Virginia che ci parlerà appunto di questo ambito e vado un attimo avanti dicendo che appropriarsi delle vite di queste donne, del loro corpo e della loro immagine è qualcosa che nessuno ha il diritto di fare se non loro stesse. Questo testo va avanti, poi magari ne leggeremo un altro pezzettino perché, e sono molto d'accordo con Le Viole di Marzo, perché la loro analisi ci porta poi a quella che è la piramide della violenza, quella che noi anche in qualche puntata fa avevamo chiamato la piramide della violenza, e quindi quello che è dentro il contenitore della cultura dello stupro. È interessante, io mi faccio delle domande che vi propongo, capire che cos'è questo fenomeno, perché esiste. E abbiamo letto brevemente come può sentirsi una vittima di revenge porn. È interessante anche, secondo me, capire come può sentirsi una persona invece che attua questo tipo di violenza, quanto ne è conscia, quanto si può percepire il grado di violenza che ha un atto del genere, e perché è in continuo aumento. Giusto qualche settimana fa è uscito un articolo in cui si parlava di questo gruppo di cui avete sentito sicuramente parlare, di più di 40.000... Sì, tantissimi, comunque troppi. Uomini, su un gruppo Instagram... No, Telegram, scusate. Beh, comunque un social. Un gruppo Telegram, che si scambiavano appunto immagini di donne e di minori, senza il consenso di nessuna delle persone ritratte nelle foto o nei video. E 40.000 persone in un gruppo sono un'enormità, e di gruppi così, ahimè, ce ne sono davvero parecchi. Ho letto anche, magari non riusciremo a leggere tutto quello che abbiamo trovato, ma ci siamo scambiate degli articoli molto pesanti, che alcune vittime sono addirittura state licenziate dal proprio posto di lavoro perché hanno reso hanno pubblicato, oltre che le loro foto, anche tutti i loro dati personali. Come una foto senza il consenso della persona ritratta può penetrare ogni ambito della vita di questa persona, e in che modo si può reagire, in che modo ci si può tutelare. Queste domande spero avranno una risposta lungo questa puntata. Sì, a me piacerebbe che tutte e tutti riflettessimo, proprio anche visto che viviamo nell'era della tecnologia e in questo momento ancora di più a causa della quarantena, come da un gesto che può sembrare veramente banale, sì, superficiale, l'invio di una foto può scatenarsi una vera e propria ondata che ti investe proprio la vita, come dicevi benissimo tu, in ogni ambito. È veramente fondamentale rendersi conto, avere coscienza di quello che si fa e non svalutare nessun tipo di gesto, soprattutto se scambiato privatamente, personalmente. È una cosa che io a volte rimango, mi rendo conto che è un po' strano, non dovremmo dire è strano, no. Bisogna rendersi conto del potere che si ha anche e non svalutare appunto le persone. No, esatto, anche non essere complici, ecco, nei esatto. Gruppi di amici, nei gruppi di amiche, nei gruppi social di cui facciamo parte, quando ci sono delle cose che ci danno fastidio e che sono sbagliate, tipo la condivisione di una foto di una persona che non è nel nostro gruppo, non ha dato il consenso per la pubblicazione di quella foto, rendersene conto e fermare questo flusso di violenza che poi probabilmente genera altra violenza. Per questo che parliamo di piramide, per questo che parliamo di cultura dello stupro. Che cosa c'è nell'immaginario di un uomo che si eccita o si diverte davanti a una foto di una persona che non ha dato il consenso della pubblicazione di quella foto? È una grande domanda. Sì. Io credo ci sia dietro una grande smania di potere. Di potere. Il poter decidere a discapito di altri, il non consenso, e quindi come nello stupro, di fatto, ciò che eccita è anche il non consenso. Il sentirsi in una posizione di dominio. Di dominio, esatto. E condividere questa cosa in gruppi massicci di persone che tendenzialmente non esprimono il proprio sdegno, ok? Perché poi sennò diventa tutto molto complicato e quindi lì si minimizza. Esatto. Si naturalizza un gesto che non è naturale, ma che è orrendo ed è violento. E quando si fa in un gruppo in cui c'è un silenzio assenso, oppure proprio una condivisione violenta, continua, incessante, uno scambio, un po' come fosse proprio un baratto, sì, di immagini, di foto, di video. E, ok, mi sono un po' persa perché mi sono già innervosita, ma adesso mi tranquillizzo. No, perché di cose da dire ce ne sono veramente tantissime, ogni anche risvolto, cioè si aprono tantissime anche sfaccettature, sì, anche quella della dinamica del gruppo, che vabbè adesso non abbiamo neanche le competenze, però di sicuro è abbastanza lampante come agisca su alcuni singoli individui, sia per condivisione ma anche per, vabbè, io pur di stare qua, di sentirmi parte di qualcosa, faccio passare cose che magari non accetterei in altre, e credo che sia interessante appunto analizzarli, almeno guardarli tutti e rendersene conto, proprio per essere sempre più consapevoli. E c'è anche un grande controsenso, secondo me, forse, in questa logica un po' malata, che è come viene vista la sessualità, come viene visto il sesso e come vengono visti i corpi sessualizzati continuamente, secondo me, diffondono questo tipo di cultura, no? Non sono più corpi, punto. Belli, piacevoli, eccitanti, con forme interessanti, che ne so. Ma sono corpi sessualizzati, quindi con un unico scopo. E qui si apre, secondo me, un grande... Un altro grande capitolo. Scenario. Cioè, non so se avete mai discusso con persone che hanno fatto queste cose o comunque che le hanno subite in qualche modo senza avere gli strumenti per controbattere, diciamo, perché poi forse gli strumenti mancano ai più, a tanti. Però alla fine, minimizzando, si può dire, vabbè, comunque quella foto se l'è fatta, e alla fine non è niente di che, cioè non è neanche una foto in cui è completamente nuda, ma è semi-nuda, no? E lì c'è anche, secondo me, tutto quello che è il nudo per noi, no? E quindi quando si vuole si minimizza, però di fatto in questi gruppi queste foto, questi tipi di sessualità, questi tipi di corpi sessualizzati sono lì perché a queste persone effettivamente, cioè probabilmente, credo, ecciti il fatto che possano avere qualcosa che con il consenso probabilmente non potrebbero avere, oppure sì, ma sono non so, cioè, non hanno gli strumenti probabilmente per capire di che cosa si tratta, cioè, non lo so. Io penso che questa cosa accada anche nei piccoli gruppi di amici, no? Non solo come in questo caso con 40.000 follower o sì, persone, sì, che seguono lo stesso gruppo più nascosto, tra virgolette, magari non così anche lampante, ma può succedere anche. Io credo che una dinamica molto simile, poi anche se la circostanza, magari la situazione è un po' molto diversa, quando si va fuori a bere, anche il parlare, usare un determinato tipo di linguaggio, oggettificare chi si ha di fronte, è anche quello una sorta di appunto strumentalizzazione e violenza, vista ovviamente da un altro punto di vista, però appunto alcune dinamiche sono molto simili. Va bene. Abbiamo svarionato abbastanza, sì. Secondo me. Possiamo passare a un'altra traccia e poi sentiamo il primo intervento, esatto, la prima telefonata della serata. Ecco a voi Donatella Rettore. Il cobra non è un serpente, quando vedo te, quando vedo te, quando vedo te, quando vedo te. Il cobra non è una biscia, ma un vapore che striscia con la traccia che lascia. Dove passi tu, dove passi tu, dove passi tu, dove passi tu. Il cobra col sale, se lo metti fa male, perché non si usa così. Il cobra amazzone, di pietra d'ottone, è un nobile servo che vive in prigione. Da da da da da da da da da da da da da da da da da da. Gira, mi chioda, mi chiude la bocca, mi stringe, mi tocca. Oh, oh, il cobra, ah! Oh, oh, il cobra, ah! Il cobra non è un vampiro, ma un alamo sospiro che diventa un impero quando vedo te, quando vedo te, quando vedo te. Eccoci qua, eccoci prontissime a chiamare Elisabetta. Lei fa parte del collettivo Ambrosia, un collettivo politico che si occupa principalmente di questioni di genere. Salutiamo tutte le compagne di Ambrosia. Le super compagne di Ambrosia, che fanno parte anche compagno. Di Luna di Me. Compagne, compagni, compagno. E fanno anche parte della rete di Non Una di Meno. E, Elisabetta ci parlerà nello specifico del revenge porn, proprio dettagliatamente, quindi siamo nelle mani giuste. Adesso provo a chiamarla. Un attimo solo. Ciao. Ciao Elisabetta, ci senti? Sì, sì, vi sento. Oh. Ciao Giulia, ciao Martina e ciao a tutte e tutti i compagni in ascolto su Radio Zam e grazie per questo spazio. Grazie. Ciao, grazie e benvenuta. Grazie a te per averci dedicato un po' del tuo tempo per affrontare questa tematica molto importante, molto tosta anche. E noi abbiamo detto brevemente che tu fai parte del collettivo Ambrosia, però appunto se magari vuoi anche raccontarci un po' chi sei, cosa fai. Certo, ah, tra l'altro salutiamo, cioè saluto le compagne e i compagni di Ambrosia e ringrazio molto perché stiamo davvero sviluppando un sacco di ragionamenti collettivi molto belli anche su questo tema. che ai noi è tornato recentemente alla ribalta, per quanto in realtà io ci tengo già fin da subito a sottolineare che è una violenza di genere che è già in circolazione da 10 anni. E sì, credo sia importante puntualizzarlo, e mi sto occupando di questo tema poi nello specifico perché sto scrivendo la tesi di laurea su questo in giurisprudenza. Ah, caspita, quindi proprio in modo molto specifico. Come mai hai scelto questo tema, se posso chiedere? Certo, perché dall'anno scorso mi sono iniziata un po' ad appassionare ai temi relativi alla privacy e alla protezione dei dati, leggendo, cioè proprio, cioè, comunque già da un po' che sono attiva e non una di meno, e quello che mi ha colpito proprio di questa, che è una violenza, è che è estremamente pervasiva e appunto molto molto violenta, proprio come avete detto bene prima, perché vi stavo ascoltando, davvero colpisce con una forza inaudita, è proprio un inaudito abuso ed esercizio di potere. Ed è un tema di cui credo non si parli abbastanza in modo corretto, cioè non se ne parla mai davvero in termini di violenza, forse solo adesso stiamo iniziando un po' a inquadrarla così. E quindi mi sembrava, non lo so, importante, ecco, farci un lavoro. Sì, direi che è fondamentale soprattutto aprire un pochettino gli occhi alle persone che magari non se ne rendono conto di quanto sia appunto violenta, come hai detto bene tu, questo tipo di azione. Quindi parlarne credo che appunto sia una cosa estremamente importante, soprattutto in questo momento. Assolutamente. E quindi a me piacerebbe partire con voi con una riflessione, cioè già un po' ne avete parlato prima, cioè come sia già profondamente sbagliato parlarne in termini appunto di revenge porn, che tradotto letteralmente in italiano è la vendetta porno, quando in realtà, partendo dalla parola porno, quando di pornografico non c'è assolutamente nulla, proprio perché noi intendiamo comunque il porno come un prodotto artistico consensuale, mentre quello che colpisce di questa violenza è appunto la violazione totale del consenso della persona ritratta, le cui foto, immagini o comunque video sono stati diffusi. E questo credo sia davvero molto importante da sottolineare, leggendo anche molte testimonianze di donne che hanno subito questa violenza, tutte hanno sottolineato come queste immagini non le abbiano mai vissute come un porno, anzi trovavano offensivo che se ne parlasse in questi termini. Per loro non c'era nulla di pornografico in quelle immagini, c'era solo tanta violenza. E poi è estremamente problematico accostare quindi questa parola porno invece alla parola vendetta, proprio perché questa comunque da un lato assume soltanto la prospettiva di chi attua questa violenza, di chi posta queste immagini, le condivide o anche soltanto le guarda, e poi giustifica tutta quella che è la retorica di cui siamo stufe, che è la retorica appunto del victim blaming, della colpevolizzazione della vittima, perché evidentemente c'è qualcosa di cui vendicarsi, no? Sì. Quando in realtà è appunto una forma di violenza di genere, è importante sottolineare poi di genere, perché appunto anche quantitativamente, proprio sistematicamente a essere vittime di questa pratica violenta sono le donne, e poi ci tengo anche molto a sottolineare specialmente le donne che si trovano su anche plurimi assi di discriminazione, quindi donne nere, donne appartenenti a minoranze, le donne dello spettro LGBTQA e in generale a pari tipi di minoranze, ecco, ed è una cosa che emerge comunque in tanti studi. In Italia non ce ne sono ancora tantissimi, ma ad esempio studi condotti, non so, negli Stati Uniti, in Canada, anche in Australia, sottolineano questa cosa. Cosa ne pensate? Ho capito, quindi colpisce ancora di più determinate minoranze, come... Ah, sì. Quindi ci sono tantissimi aspetti del revenge porn, come tu hai detto, anche la questione pornografica quando non è minimamente pornografica, la questione di associare una sorta di vendetta e questo anche accanimento verso dei gruppi più piccoli. Ha tantissime quindi sfaccettature da capire e analizzare. Assolutamente. E poi è anche molto importante sottolineare, secondo me, come sia una violenza di genere che tra l'altro è molto diffusa proprio a livello mondiale, cioè non è soltanto una violenza di genere che riguarda, non so, noi immagineremmo soltanto il mondo occidentale bianco, perché no, in realtà è una violenza che è diffusa anche in Africa ed è diffusa anche nel continente asiatico, anzi c'è stato un caso molto forte di questa violenza, di diffusione non consensuale di immagini intime in Corea del Sud ed è stato chiamato a livello giornalistico come fenomeno Molka. E sostanzialmente quello che era successo è che venivano appunto posizionate delle videocamere in tendenzialmente il fenomeno è partito da camere d'albergo, quindi venivano appunto localizzate chiaramente all'insaputa delle persone videocamere, e addirittura c'era lo streaming di quello che poi accadeva nelle camere. E poi il fenomeno ha assunto proprio anche portata nazionale e anche in capitali, nella capitale molte videocamere sono state ritrovate davvero in tantissimi luoghi pubblici, cioè anche, non lo so, i bagni dell'aeroporto, come bagni, davvero tanti luoghi pubblici. E però la cosa interessante è stata anche, cioè che dà, secondo me, prospettiva anche a livello politico più a lungo termine, è che ci sono state tante manifestazioni collettive di donne che sono proprio insorte con sotto lo slogan la mia vita non è il tuo porno. E quindi penso sarebbe bello provare a appunto ragionare a lungo termine e provare anche noi a organizzarci in questo senso. Non so cosa ne pensate. No, a parte che è uno slogan abbastanza forte, secondo sì. me. Rende molto bene l'idea. Sì. E dovremmo assolutamente, sì, sono d'accordo, organizzarci per capire, cioè per studiare meglio magari questo fenomeno, cioè come stai facendo anche tu, e per capire anche cosa fare. Sì, assolutamente. E poi, come avete anche sottolineato voi molto bene prima, quello che appunto poi davvero fa male di questa violenza e uccide, perché appunto spessissimo, numerosissimi casi di questa violenza purtroppo si traducono anche in tentati suicidi o suicidi. Quello che davvero fa più male di questa violenza è proprio lo stigma, il victim blaming, lo slut shaming, e quindi è un tipo di violenza che dal livello appunto se vogliamo individuale, virtuale, poi davvero ha conseguenze a livello collettivo, strutturale e poi appunto anche economico. Voi prima avete parlato della questione dei licenziamenti. È significativo un caso recente di una donna bresciana che appunto vittima che è stata licenziata per danno all'immagine dell'azienda dal datore di lavoro. Sì, danno all'immagine, sì, che è paradossale. Quindi a me piacerebbe molto anche riflettere su come sia totalmente insufficiente la sola risposta criminalizzatrice, che è purtroppo quello che è avvenuto l'anno scorso con l'emanazione del Codice Rosso. È stata introdotta una nuova fattispecie di reato, che è appunto la diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, il nuovo articolo 612 ter Codice Penale. Tuttavia questo senza essere accompagnato ad esempio da un potenziamento di o previsione di supporti, accompagnamenti psicologici nei centri antiviolenza. Tra l'altro anche qua ci sarebbe poi un discorso infinito da fare su come progressivamente siano stati smantellati, depotenziati e definanziati. Altra cosa che ha colpito molto è che non sia stata ad esempio prevista una procedura veloce di segnalazione e rimozione del contenuto da fare al garante della privacy, mentre questo c'è ad esempio nel caso di cyberbullismo. Okay. Ecco, quindi anche questo è problematico. Quindi da un lato comunque chi oggi è minorenne può comunque affidarsi a questa tutela data dal cyberbullismo, però il problema persiste perché invece è maggiorenne, cioè comunque si può fare una segnalazione al garante della privacy, però a differenza di quanto avviene per il cyberbullismo è meno contingentata, ecco, quindi è che è problematico, perché un altro credo aspetto davvero cruciale di questa forma di violenza di genere è data proprio anche dalla viralità della diffusione di questi contenuti. Certo. E sicuramente bisogna lavorare in primis sullo strumento culturale. Infatti io volevo chiederti anche da questo punto di vista quanto è importante magari riuscire a far capire, cioè sarebbe bello dire prevenire, però ormai a questo punto poter lavorare appunto sulle generazioni future sicuramente, però appunto lavorare sul comprendere come un'immagine può veramente essere violenta nei confronti di qualcuno, immagine accompagnata poi da tutta una serie di linguaggi, cioè riuscire a lavorare sul confronto con le persone proprio su la potenza che può avere un gesto che sembra così banale e invece come si ripercuote nella vita di una persona. Io credo che possa essere veramente, cioè bisognerebbe attuare anche dei sistemi in questo senso. Assolutamente, è cruciale il lavoro appunto culturale educativo da fare, e tra l'altro un lavoro educativo che poi a mio avviso non può soltanto fermarsi, relegarsi al contesto scolastico, per quanto sia già quello fondamentale da fare, cioè sì. Sogniamo tutte e tutti il nostro mondo ideale in cui si fa un'educazione sessuale, affettiva, seria, di decostruzione dei generi nelle scuole, ma secondo me quel lavoro lì non deve rimanere confinato alla sola scuola, ma dovrebbe essere davvero una formazione in itinere, perché poi ad esempio moltissimi casi di diffusione di immagini intime partono in realtà anche dai posti di lavoro, ad esempio. Spesso a perpetrare questa violenza sono magari delle colleghe, dei colleghi, probabilmente colleghi. E bisogna fare un lavoro culturale enorme proprio anche di lavorare su e decostruire quella che è la mascolinità tossica. Assolutamente tossica, ma che più tossica non si può, ed è una cosa che colpisce appunto di questi canali, cioè in particolare di questi canali Telegram, ma ricordiamo che non sono solo i canali Telegram, ci sono tantissime altre modalità di diffondere immagini intime, sì. Però quello che colpisce di questi canali è proprio l'aggregazione che ruota attorno a questa mascolinità tossica, e quindi questa cessione, addirittura vendita di queste immagini, perché c'era anche chi ad esempio proponeva in vendita le foto della propria partner o ex partner, che sembra quasi poi diventare un gioco, cioè sembra quasi diventare una sorta di game, cioè per dirla in linguaggio appunto di gaming, diventa proprio un collante sociale per queste soggettività, cioè un vero e proprio caso di omosocialità. Anche lì bisognerebbe fare un lavoro culturale per comprendere come ci si possa associare anche senza passare da questa pratica. Sì. Cioè, è un lavorone, però sì, assolutamente, io sono d'accordo. Tra l'altro, secondo me, la tua ricerca universitaria può essere un punto di partenza, ecco. Cioè, ognuno può partire un po' da quello che studia, da quello che fa, e discuterne quantomeno, anche discuterne nei gruppi stessi. E partire da queste piccole cose, anche piccoli gesti all'interno dei gruppi social, in questo caso di cui facciamo parte, secondo me possono cambiare qualcosa, ecco. Quantomeno non rimanere indifferenti e capire che è una violenza e che ha dei danni enormi. Sì. e che non libera nessuno, ecco, non libera il sesso, non libera la sessualità, non libera gli individui, anzi, cioè, fa male a chiunque e non serve a nient'altro che a rendere questo mondo peggiore, ecco. Elisabetta, che dire, spero di risentirti, se è andata? È caduta la linea, non so perché. È andata bene? No, la richiamiamo per salutarci bene. Certo. Non so cosa sia successo, il mio cellulare è sempre più pacco. Eccola. Ciao ragazze. Ciao Elisabetta. Non so cosa è successo, probabilmente il mio cellulare è un po' ballerino. Vai, tranquilla. No, che volevamo salutarti bene e ringraziarti soprattutto per il tuo contributo, perché appunto ci hai spiegato dei concetti anche non così semplici o comunque non così facili da poter essere assorbiti in una maniera molto, molto chiara. Non lo so, rimaniamo in contatto per smuovere un po' la nostra società e organizzare veramente come in Corea del Sud, avevi detto, giusto? Sì. Un po' un bel movimento per smuovere le coscienze. Ma molto volentieri, e davvero grazie ancora a voi per lo spazio e penso sia molto importante appunto riflettere in termini davvero collettivi a lungo termine e ragionare anche sulle possibili pratiche anche autotutela, sì, e di tutela, ma immagino che poi di quello ne parlerete meglio con Virginia. Quindi sì, vi saluto. Dopo chiameremo anche lei, esatto. Stasera abbiamo disturbato la cena di varie ambrosie. Delle ambrosie. Va grazie. Bene, allora, grazie ancora. A presto. Buona grazie serata. Grazie a voi. A presto, ciao, ciao ciao. Cosa sentiamo, Giulia? Adesso c'era aspetta che adesso devo guardare quello giusto. C'è un pezzone. Mm-hmm. Vuoi dirlo tu? Non sono una signora? È lei? È proprio lei, Loredana Bertè. A dopo. Che dietro un giornale sta cambiando opinioni, e il male del giorno è pochi chilometri a sud del mio ritorno, del mio buongiorno, ma in volo a planare dentro il peggiore motel di questa carrettera, di questa vita balera. Ricordati qui per non saper volare. neanche noi siamo delle signore, almeno io non... No. Sotto nessun punto di vista, anche se ultimamente tutti mi dicono, ah signora, signora, oh, vabbè però. Ma chi vedi? Ma in giro, mi fa morire quando i ragazzini mi chiedono una sigaretta, signora, le posso chiedere una sigaretta? Ma la signora proprio no, allora non la meriti. Vabbè, scusate l'intramezzo un po' così. Eccoci tornate, stiamo parlando di revenge porn. Radio ZM, sono le 19:19. Noi siamo un po' in ritardo sulla nostra tabella di marcia, ci scusiamo. Ma ce la faremo. Arriveremo da tutte. Adesso sentiamo Tecla. Già, Tecla. Tecla che... per chi di voi non ha ancora ascoltato questo programma, ci regala sempre delle perle di poesia e di arte. Vediamo cosa ci legge oggi. Sono un po' curiosa. Eccomi. Eccoti. Ciao Tecla. Ciao, vi saluti. Sento. Scusami, ci tengo a dirlo, ti saluta anche Lorenzo, grazie, che è qui con grazie, noi in radio. Grazie Marti, che mi dall'inizio. Grazie mille. No, grazie. Aspetta Tecla, però guarda, adesso fa così, fa tutto perché non lo consideriamo, ma oggi mi ha detto, oggi vai tu in radio, io non, è come se non ci fossi, quindi io sto eseguendo i tuoi ordini, è come se tu non ci ma fossi. Ma infatti siete formidabili, cioè siete troppo brave, bravissime. Complimenti, senza nessun intoppo, veramente very compliment. E volevo anche ringraziare molto Elisabetta per l'intervento che ha fatto, perché è stato da pelle d'oca, devo dire. Sì, sono d'accordo. Tu cosa ci racconti oggi? Vi sento un po' male, però vi sento. Dai. Un attimino, tu ci senti male? La novità è che adesso vi sento meglio. Dovete parlare al telefono. Ok, adesso vi sento. Ok. Quindi, allora ragazze, vai Tecla. Io questa sera vi ho portato una poesia, come sempre, e una poesia che affronta la tematica della violenza, dello stalking, e vuole ricordare come in questo momento di quarantena le violenze domestiche aumentano. E proprio in questo momento ho davanti dei dati statistici che mi dicono che sono aumentate del 74,5%. E, dall'inizio quindi, della quarantena, questi dati? Dall'inizio della quarantena, esatto. Precisamente dal 2 marzo al 5 aprile 2020. Se volete vi leggo anche un pezzo di questo estratto dell'articolo che secondo me potrebbe essere interessante. Certo, vai. Sì. Prima di introdurre la poesia, che introduce anche un po' la poesia secondo me. Allora, secondo la rete dei centri antiviolenza, è un incremento significativo delle richieste di supporto da parte di donne che erano già state seguite dai nostri centri, costrette a trascorrere in casa con il maltrattante il periodo di quarantena per l'emergenza coronavirus. C'è poi un altro dato che mette in allarme ed è il calo dei contatti con donne che non si erano mai rivolte alla rete prima. È un dato che sottolinea la difficoltà delle vittime di violenza a chiedere aiuto proprio perché sotto la continua minaccia del maltrattante. Dal 2 marzo al 5 aprile 2020 i centri sono stati contattati complessivamente da 2.867 donne, di cui soltanto 806, pari al 28%, sono donne che non si erano mai rivolte prima ai centri antiviolenza del loro territorio. Quindi questo ci fa capire come la quarantena stia portando alcune donne anche ad uscire probabilmente, a farsi coraggio a chiamare. Alcuni centri hanno avuto un numero di contatti superiori a 120 fino a oltre 300. Ebbene, volevo leggervi appunto questa cosa qua, mi sembrava opportuno vista la tematica. Sì, hai fatto bene. è giusto sapere anche da, anche se le statistiche sembrano sempre un po' fredde, però visto il tema è quello che ci raccontano, quello che ci mettono in evidenza, direi che è assolutamente importante renderci conto di quanto questa cosa stia agendo sulle persone, quindi sì, hai fatto benissimo. Esatto, e oltre a questa cosa qui volevo ricordare che il CADMI, il Centro Antiviolenza di Milano, è sempre aperto, non si ferma, e nella sua pagina Facebook si possono trovare i numeri da contattare, e il numero è 02 55 01 55 19. Grazie Tecla, hai fatto bene. E niente, adesso partiamo. Vai, ti ascoltiamo. Il palco è tuo. Le statistiche italiane parlano chiaro. Ogni 2 giorni una donna viene uccisa. È il femminicidio il fenomeno più amaro quando l'uomo a bestia, feroce, è a guisa. Bisogna avere il coraggio di denunciare. Trovare la forza di fermarlo molto prima, tanto si sa che finirà con l'ammazzare. Botte, violenze e quel pensiero sempre in cima. Il principe azzurro che si trasforma in mostro. È una metamorfosi del tutto sconvolgente. Gesù, Giuseppe, Maria, Padre nostro, ma il cielo tace, eppure lo consente. Uomini intelligenti e colti diventano violenti, che non accettano la fine di un rapporto. È perché l'amavo troppo. Così giustificano i fendenti la loro, è una vita inutile. Ma intanto c'è chi è morto. Pretendono l'amore con la persecuzione, non è così che si entra nel suo cuore. I sentimenti esigono la buona educazione, non la vendetta, né l'odio, né tutto quel dolore. Ha un passato incancellabile, senza rispetto e stima. Una seconda possibilità mai sarà data. Ritornerà di nuovo il mostro che era prima, sotto lo stretto sigillo di una mente malata. Si spera che non diventino come i padri, i figli. Hanno guardato la madre piangere con un occhio nero che alla compagna non mostrino gli artigli. Dalla parte delle donne, con animo sincero. No al silenzio e uniti contro la violenza. Unire i comportamenti possessivi ed incivili. Chi uccide non dovrà fidarsi alla clemenza. Lo stalking è il segno indelebile dei vili. E questa era una poesia di Maria Rosa Bernasconi, una poetessa contemporanea che è legata al mondo del femminile e rispetta la loro identità e la presenza all'interno della storia del nostro pianeta. E spero vi sia piaciuta il mio brevissimo intervento. No, beh, breve ma intenso. A me ha ricordato uno degli slogan, perché vabbè, così si chiamano, però appunto che racchiude dei significati molto, molto forti di Non Una di Meno, che dice appunto: lo stupratore non è malato ma figlio sano del patriarcato. Anche questa sorta di continuo dire era un raptus, è perché l'amava troppo e quindi è impazzito. Esatto. Di gelosia, non sono più cose giustificabili dal troppo amore soprattutto, ma neanche da questi raptus. Queste sono purtroppo strutture che vivono nella nostra società e noi ne siamo purtroppo permeati e dobbiamo decostruirle. Esatto. Questa tua poesia me l'ha fatto proprio rimbalzare in testa subito, quindi direi che è super pertinente col tema di stasera. Assolutamente, anche perché purtroppo si coniuga un po' tutto, no? se parliamo di linguaggio, se parliamo di immagini, se parliamo di sessualità, se parliamo di femminicidi, di stupri, quello che unisce il tutto è il patriarcato, la violenza di genere e purtroppo è meno male tutto collegato, quindi anche esatto. Il tema di cui stavamo parlando, cioè il tema a cui abbiamo dedicato questa puntata, che sembra lontano anche perché forse c'è uno schermo di mezzo, quindi sarebbe interessante anche poi capire quanto uno schermo possa cambiare la percezione della violenza, no? Di attuarla, riceverla, di farne parte, perché è diverso, chiaramente, in qualche modo, cioè, sembra diverso, almeno la percezione è quella, poi in realtà tutto si coniuga alla perfezione, purtroppo, direi. Esatto. Quindi grazie Tecla, dici. Scusate se vi interrompo, ma prima di lasciarvi, in realtà avrei anche un'altra piccola poesia molto breve che si intitola Corpo di donna ed è stata scritta da Pablo Neruda, quindi tantissimi anni fa, e si collega molto alla tematica del revenge porn proprio perché parla di corpo ed esalta la donna. E quindi volevo dedicarla. Vai. E ve la leggo. Corpo di donna, bianche colline, cosce bianche. Assomigli al modo nel tuo gesto di abbandono. Il mio corpo di rude contadino ti scava e fa scaturire il figlio dal fondo della terra. Fui solo come un tunnel. Da me fuggivano gli uccelli, in me irrompeva la notte con la sua potente invasione. Per sopravvivere a me stesso, ti forgiai come un'arma, come freccia al mio arco, come pietra per la mia fionda. Ma viene l'ora della vendetta e ti amo. Corpo di pelle, di muschio, di latte avido e fermo. Le coppe del seno, gli occhi d'assenza, le rose del pube, la tua voce lenta e triste, corpo della mia donna, resterò nella tua grazia, mia sete, mia ansia, senza limite, mio cammino incerto, rivoli oscuri dove la sete eterna rimane, e la fatica rimane, e il dolore infinito. Fine. Wow. Eravamo anche coordinate io e Martina. Grazie Tecla, no, questa perché era... Dimmi pure. Come, scusa? No, perché sento il ritardo. Aspetta. Cos'è che hai detto? No, ti volevo ringraziare perché appunto io credo che la delicatezza che tu riesci a trovare nell'affrontare tematiche così importanti attraverso il teatro, la poesia, è veramente, cioè io sono fermamente convinta che l'arte sia anche uno strumento per veicolare dei messaggi. E esatto. Appunto, prima abbiamo hai letto una poesia che parlava di tematiche che cioè, fanno anche male, e adesso aver letto questa poesia di Neruda dà anche una sorta di luce, mette un po' di luce. Esatto, ed è stato proprio per questo che ho voluto leggerla, quindi hai colto benissimo il messaggio. Quindi grazie, direi che ne abbiamo tutte e tutti molto bisogno. Esatto, ed è proprio per questo che continuerò a intasarvi di poesie. Noi siamo solo contente. Sì, credo proprio di sì. Va bene ragazzi, allora daremo spazio al prossimo intervento e a questa fantastica playlist di Lady J, italianissima, tutta l'italiana, che ci fa ballare. Sì, grazie, alleggeriamo un pochettino con la musica. Vai, a presto. Ciao ragazzi, Tecla. Vi abbraccio. Buona serata, ciao. Grazie. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Bene, prossimo intervento, facciamo una pausa musicale. Ok. che lo introduce anche in un certo qual modo. Esatto, infatti, guarda caso sì. È andata proprio... Dopo sentiremo Virginia e adesso invece sentiamo la Caselli con Nessuno mi può giudicare. E rimanete con noi. La verità mi fa male, lo so. La verità mi fa male, lo sai. Nessuno mi può giudicare, nemmeno tu. La verità mi fa male, lo so. Lo so che ho sbagliato una volta e non sbaglio più. La verità mi fa male, lo so. Dovresti pensare a me e stare più attento a te. Su con me, chi lo sa perché? Ognuno ha il diritto di vivere come può. La verità mi fa male, lo so. Per questo una cosa mi piace, quell'altra no. La verità mi fa male, lo so. Se sono tornata a te, ti basta sapere che ho visto la differenza fra lui e te, ed ho scelto te. Se ho sbagliato un giorno, ora capisco che l'ho pagata cara la verità. Io ti chiedo scusa, e sai perché? Sta di casa qui la felicità. Molto, molto più di prima io t'amerò. In confronto all'altro sei meglio tu. E d'ora in avanti prometto che quel che ho fatto lì non farò mai più. Direi che questo pezzo introduce a pennello la prossima telefonata, che sarà a Virginia, che ci sta aspettando. Speriamo di non averle rovinato troppo la cena. Sì. Ecco, adesso vedi, non ero abbastanza pronta, devo cercare. Eccola. Squilla. Pronto? Ciao Virgi. Ciao Virginia, benvenuta. Ciao. Come va? Tutto bene. Voi siete bene. In diretta? Sì, siamo in diretta. Sì. Sei su Radio ZM, sono le 19:37. Scusaci per il ritardo. Ma figurati. Vi ascoltavo con piacere. Dunque, abbiamo lasciato tutta la parte legale a te. E, abbiamo parlato un po' di revenge porn anche con Elisabetta e Tecla. E niente, noi abbiamo scelto anche di proporti di intervenire in quanto avvocata. Sì, mi avete lasciato la parte più noiosa, insomma. Sì, però sappiamo che tu puoi renderla super simpatica e quindi sei la persona giusta. E la parte soporifera va a Virginia. No, non è vero, non è vero, anzi. No, beh, Prima Elisabetta, allora, ci ha un po' anticipato in realtà tutta la questione dell'aspetto legale, perché proprio l'anno scorso, adesso spero di non sbagliare, è uscita una legge. Vediamo se sono abbastanza preparata. Sì, ma allora, posto che sicuramente avete già completamente introdotto l'argomento a tutto tondo, se vogliamo parlare dell'aspetto squisitamente giuridico e normativo, effettivamente l'anno scorso finalmente, ma sull'onda anche di eventi che hanno riguardato a livello personale la Camera, vabbè adesso non sto qui a dilungarmi, però diciamo che è stata una previsione normativa introdotta con molta fretta, ed effettivamente sì, all'interno del codice rosso che già era previsto e che contiene determinate norme tutte dello stesso filone, effettivamente viene introdotto anche questo nuovo articolo all'interno del codice penale, quindi viene proprio creato ex novo una fattispecie di reato. Quindi da quel momento, quindi dal momento in cui questa legge viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale e introduce nel codice penale questo reato, effettivamente questa condotta rientra a tutti gli effetti nel mondo penale. E qual è la fattispecie? È la diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, che vuol dire tutto, non vuol dire niente. Naturalmente si rifà al revenge porn, così come è chiamato in tutto il mondo, sicuramente non è una definizione che corrisponde veramente poi alla condotta e sicuramente non è una terminologia che ci piace. La condotta l'avete capita, quindi si tratta di criminalizzare delle azioni non consensuali, cioè diffondere, per cui il legislatore fa un po' come nel reato di spaccio, no? Quindi dà una condotta molto specifica, fa un elenco di verbi, no? Quindi diffonde, cede, regala, no? Però il concetto è questo, è la diffusione non consensuale di immagini sessualmente esplicite appartenenti a una persona, che appunto ritraggono questa persona senza suo consenso. Questa condotta sicuramente viene descritta e ci aiuta un po' a contrastare questo tipo di azione. Non è, ai penalisti non piace molto questo articolo perché è molto, cioè si capisce davvero che è stato fatto in fretta e ci sono diversi aspetti un po' che non convincono. Ora io non voglio annoiare nessuno, però forse vale la pena anche un po', dopo tutto quello che è stato detto, entrare nella pratica, no? Perché effettivamente quando poi ci si trova a essere vittime di questo tipo di condotta, come mi difendo, quali strumenti io ho in mia difesa per evitare di subire un danno? Gli strumenti sono tanti. Lo strumento penale è uno di questi, è a disposizione ed effettivamente pone appunto una descrizione di diverse condotte. Purtroppo ci sono delle criticità perché a tutti gli effetti chiedono un dolo specifico. Che cosa significa? Cioè che tu devi provare di voler, si dice, arrecare nocumento, no? Cioè mi volevi ledere, mi volevi portare danno, mi volevi ferire in qualche modo. Questo è molto difficile perché deve essere provato poi in giudizio, no? E poi comunque questa sorta di vendetta, che poi sicuramente l'avete già detto, io purtroppo non sono riuscita a seguirvi fin dall'inizio, però non è sempre una vendetta, insomma anche questa poi è da provare. ci sono delle situazioni che non convincono, come il fatto dell'espressione sessualmente esplicito. Che cos'è sessualmente esplicito? Siamo stati fortunati perché inizialmente, nella prima bozza, addirittura c'era la definizione di sessualmente esplicito. Per fortuna non c'è stata, così si va alla convinzione del giudice, cioè ci si può arrivare nella dialettica a che cos'è sessualmente esplicito. È troppo banale dire che quello che è culturalmente per una persona o anche un luogo sessualmente esplicito non lo è per un'altra persona, quindi anche lì ci potrebbe essere un'accusa, una difesa molto molto diversa o comunque concentrato su questo. E poi c'è l'aggravante. Allora, sicuramente è un articolo che è stato un po' scritto sulla falsariga dello stalking, no? Anche qui italianizzato in atti persecutori, giustamente, ma conosciuto come stalking, e quindi ci sono un po' di aggravanti che sembrano un po' la fotocopia dello stalking. Sicuramente c'è un aggravante per chi utilizza queste foto ritraenti persone in difficoltà psichica, no? Quindi che non sono al pieno delle proprie facoltà, che possono essere disabili o anche momentaneamente non capaci di intendere di volere. E poi abbiamo la madre, ecco, quindi c'è l'aggravante nel caso in cui questa condotta venga operata nel caso della madre. Della che madre? Della madre, la donna in stato di gravidanza. Ah. Ecco, c'è questa aggravante. Quindi, solo in stato di gravidanza, ma non madre già senza no. gravidanza, diciamo, già partorita. Si fa riferimento... Allora, sicuramente alle persone in condizioni di inferiorità psichica o fisica, e ci sta, perché è una categoria fragile. Certo. Perché se io non so quello che sto facendo e io me ne approfitto e ti faccio fare delle cose, le fotografo, le mando in rete, è chiaro che sono doppiamente, no? Sì. Deplorevole, il mio comportamento è doppiamente deplorevole. Ma la madre, la donna in stato di gravidanza... è veramente qualcosa che non si comprende sul livello etico, se non per quel peso catastrofico e patriarcale e paternalistico che sempre ci portiamo dietro. Cioè, la donna in stato di gravidanza è più meritevole, attenzione, perché... è in qualche modo pura e non può essere stressata. Ed è lì che non si capisce, cioè realizzati a danno di una donna in stato di gravidanza. Che cosa significa? Che mentre lei stava scattata questa fotografia, la donna era in stato di gravidanza? Questo si intende? E poi a quanti mesi? Perché non sempre è riconoscibile, magari era incinta effettivamente, ma nessuno lo sapeva, alcune donne fino al quinto mese neanche si capisce. O quando questa foto viene diffusa, perché allora se quando questa foto viene diffusa io lo vengo a sapere, sono incinta, mi reca stress, e allora forse ha senso, perché io in un momento in cui sono già incinta, cioè non che sono già incinta, in un momento in cui sono incinta non devo stressarmi. Allora, visto che questa norma parla proprio di documento, mi rende uno stress e mi reca un danno, se io sono incinta è il doppio. Ma se io sto facendo la chemio non è uguale, non sto lo stesso lottando contro qualcosa, per cui se mi arriva pure sta cosa che sei mesi fa ho fatto una foto porno e questi me li mandano in giro, non ho comunque una situazione di stress da affrontare. Quindi perché aggiungere questa particolarità? È veramente qualcosa di in più. Ed è una cosa di cui possiamo parlare in questo momento, perché si rifà a un'idea che noi abbiamo ben presente. C'era anche nel pacchetto sicurezza del 2008, no? Se vi ricordate, c'è l'idea per cui se c'erano stati degli inasprimenti rispetto al travalicare i confini dei cantieri della Val Susa, per cui la polizia poteva intervenire in un certo modo, ma nello stesso pacchetto c'era una protezione maggiore per la salute della donna, soprattutto se in stato di gravidanza. Quindi scusate, non capisco oggi come allora. Se io sono una donna e cerco di superare il cantiere in ottava, le prendo un sacco una sporta e me le merito perché sono una stronza, però se sono incinta sono una santa e ho bisogno di doppia protezione. È davvero qualcosa che si fa fatica a capire, no? Poi non so voi come la pensate, però mi aveva colpito molto da giurista questo sempre questo ritorno al dettaglio della donna in stato di gravidanza, no? Sì, non so voi. A me sempre meritevole di protezione, di cura, di tutela la donna. Esatto, a me rimanda molto quell'immagine, questo nostro stereotipo della donna madre, quindi elevata. Sì, quindi, per preservare l'immagine sì, paternalistica. Insomma. E poi vabbè, una pena edittale molto molto alta questo reato, e anche questo un po' cioè sorprende, ma non più di tanto, perché comunque ormai si va in quella direzione, cioè ormai i giochi di politica criminale vanno nella direzione di lanciare dei, come una sorta di avvertimento, no? Per cui la norma penale non è più messa sicuramente come deterrente, però anche un po' calibrata rispetto all'azione. No, è sempre tutto sensazionalistico, sempre tutto così populista. Ah, adesso la degna punizione perché fa una roba del genere, merda. Ecco, no, perché tutto il resto è vuoto, cioè il contorno intorno allo strumento penalistico è vuoto. Non ci sono altri strumenti se non quello penale di intervenire in questo tipo di situazione che alla fine è culturale, si tratta di un'educazione affettiva, un'educazione sessuale, un'educazione al rispetto, ai generi, alle differenze, che manca totalmente. E quindi è chiaro che se io ho un buco enorme, poi ci metto una pezza, ce la metto bella pesante, te la metto d'oro placcato, perché ti metto un reato, francamente non è sufficiente, cioè non è degno di una società cosiddetta civile, ed è davvero insufficiente, anche un po' triste, no? Che alla fine non esistono ammortizzatori, diciamo così, uso impropriamente questo termine, però per far capire che non ci sono appunto come dei cuscinetti per ammortizzare, no? Poi quell'evento che scaturisce poi in questa diffusione di video destinati a rimanere riservati, no? Alla fine, se dopo tutto quello che lo Stato fa per evitarlo ti educa, ti dà degli strumenti, ti fornisce dei momenti di confronto e di conforto, eccetera, alla fine tu commetti comunque questo reato, allora c'è la norma penale che sanziona. Ma così, nel vuoto e deserto più totale, arriva zac e la punizione penale, francamente no, anche perché ricordiamoci che dovrebbe sempre nella nostra civiltà, così come l'Assemblea Costituente decise nel 48, lo strumento penale deve essere sempre l'estrema ratio, no? Così come anche la scelta sanzione penale in carcere, anche quella, no? L'estrema ratio, però anche come solo strumento ora, in questo momento storico, però, cioè quando dico ora intendo gli ultimi 20-25 anni, è la prima e quasi a volte purtroppo unica metodologia che viene utilizzata per combattere determinate situazioni. Ecco. Ok, è qualcosa, non è evidentemente abbastanza. Non ho capito, perché no, mi dico, sento molto è qualcosa, lontane. Ma non è evidentemente abbastanza, cioè percepisco questo. Allora, è qualcosa perché certo funge da deterrente, per cui attenzione ad essere reato, no? E quindi, però va a monte, ma perché io non devo avere fra i miei strumenti emotivi anche una cultura al rispetto, al fatto che, perché poi attenzione, adesso non, purtroppo, scusatemi, non vi ho seguito per tutto il tempo, non so se ne avete già parlato, però il 99% di queste immagini è di ragazze, e comunque nell'immaginario, anche se noi non parliamo di questa diffusione di immagini, nell'immaginario la diffusione di immagini è di ragazze e il diffusore è un maschio, sempre, comunque, e la maggior parte delle fotografie sono al 99% di ragazze e comunque completamente devastate dai commenti, ipersessualizzate, sì. Cioè sono corpi sempre sessualizzati, sono corpi che magari mentre facevano quel film o quel, sì, insomma, quel video o quella fotografia, loro non avevano percezione di essere pornografiche, no? Ma è stato un'accezione, una visuale che è stata messa dopo, perché io poi te la rendo pornografica, no? E di conseguenza ti rendo sporca, per cui la donna che fa determinate cose è una puttana. Perché la donna deve rimanere a disposizione di un maschio comunque e per fare le cose per lui, e poi fuori deve comunque essere anche, no, vestita in un certo modo, se no sei una puttana, cioè se no che cosa fai? Ah, lo fai di mestiere, è quello, ed è tremendo se vogliamo vedere, per cui parte da lì il germe, no? Quindi io come persona perché mai dovrei diffondere una foto sessualmente esplicita, se la ritengo la cosa più normale del mondo? Girerei mai la foto di mia nonna mentre fa una pizza per poi sottoporla a slut shaming? No, perché per me non c'è niente di sbagliato, di anormale. E così allo stesso modo, perché mai dovrei diffondere un'immagine, un video sessualmente esplicito? È questo che va davvero scardinato. Certo. Ed è culturale, è educativo. È la continuazione della subordinazione costante della donna all'uomo, di fatto. E c'è una violenza che è quasi solo il fatto di essere in un mondo virtuale ti dà, no? Perché sei senza filtro, e tutte queste parole, tutta questa rabbia, questo odio, è aberrante, perché comunque da qualche parte tu ce l'hai, lo stai covando, ma come ti viene in mente, no? Cioè lo faresti mai con, che non so, con un libro? No, allora loro stanno semplicemente oggettivizzando un corpo che è quello della donna, ma per punirlo quasi, no? Sì, ed è tremendo, perché tantissime persone, non voglio fare la dicotomia maschi e femmine, perché davvero è anche fin troppo semplice forse scivolare in questo, però purtroppo le foto sono di ragazze, e comunque lo sappiamo, no? Il discorso più antico del mondo, ne stavamo parlando anche, guarda, oggi proprio con Federica e Elisabetta stavamo facendo proprio questo ragionamento, mi sono un po' inalberata, perché tutte le volte che come Ambrosia andavo nelle scuole, adesso è un paio di anni che non lo facciamo più, però io facevo sempre questo esempio, sono sicura che se voi che siete adolescenti, fra di voi c'è qualche ragazza più vivace, no? A livello affettivo è considerata sistematicamente una troia, ma se qualche vostro collega maschietto ha la stessa identica vivacità affettiva e sessuale, è un figo di Dio. Nello stesso modo, a me non verrebbe mai in mente di pubblicare un video, una foto di uno in una sposa sessualmente esplicita, per dire ma guarda che sfigato, ninfomane, ma che schifo, sei proprio uno gigolò. No. Cioè, se tu ci pensi, anche solo ti fa ridere. Invece, la foto di una donna in una foto sessualmente esplicita, purtroppo, è una meretrice. E questo è davvero qualcosa che ci schiaccia, un retaggio culturale che va scardinato così, no? Con la cultura, non con il diritto penale. Che però, comunque, ha dato uno strumento, in ogni caso. Sì, io sono assolutamente d'accordo e vabbè, senza affrontare tematiche così anche dure, ne parlo spesso con i genitori all'interno già dell'asilo, proprio per l'educazione all'emotività dei bambini, soprattutto i maschietti, perché sembra una cosa così che già, no, perché sono piccoli, beh, però già da piccoli cominciano a comunicarti qualcosa, magari non verbalmente, e bisogna essere ricettivi ad accoglierlo e fare in modo che il bimbo si senta anche tranquillo e sicuro a comunicarlo. E secondo me, cioè, già da piccoli si parte in questa educazione, poi man mano in base all'età che sia anche contestualizzata ovviamente, però io sì, credo che appunto soltanto lo strumento penale sia, spero, un minimo un deterrente. Però mi verrebbe anche quasi da chiederti, se hai ancora due minuti, quanto cioè il fatto che tu dicevi bisogna anche provare che c'era volontà di lesione, quante donne veramente, visto che la percentuale riguarda loro, poi si sentono anche tutelate dallo strumento della legge, cioè che ricorrono? No, allora, in realtà pochissime. Beh, calcola che comunque è poco che c'è questo questa norma, perché parliamo di un anno, mm-hmm. poco meno di un anno, 11 mesi, perché è proprio dal 15 aprile il disegno di legge, ma e quindi abbiamo pochissimi casi cioè scritti, no, per parlare di numeri, ok? Sì. Il discorso è che è inefficace. Allora, primo, la vittima, se vogliamo chiamarla così, si vergogna. Esatto. Vuole agire subito, però è chiaro che il processo penale agisce non togliendo il danno, ma agisce sulla gente, sul reo. Sì. E quindi lui verrà punito se ritenuto responsabile e colpevole, d'accordo? Ma tu subito, cioè, perché è come dire, mi rompono una finestra, ma ora, però poi lui verrà punito, d'accordo? Ma intanto a me la finestra, chi me la risarcisce? Mi nevica in casa, ho freddo, come faccio a mettere lì una pezza? Allora, qui ci sono tantissimi strumenti, cioè scusami, non tantissimi, cioè qualche strumento effettivamente, non penale, chiaramente. Allora bisogna subito, se mai adesso qualcuno ci sta ascoltando e gli è successo, subito contattare il social network di riferimento, no? Se questo è successo, non so, adesso famosissimo il caso di Telegram, ma può essere successo che so, su Facebook, Instagram, eccetera. Allora, subito si contatta, si dice attenzione, si segnala, questa foto che sta girando è mia, ma non ho dato il consenso. Allora subito si interviene con una mail, perché poi devi rimanere scritto, perché c'è una responsabilità anche da parte loro. Non fate gli screenshot, perché gli screenshot possono essere un'arma a doppio taglio, perché poi rischiate la diffamazione, ok? Ah. Ci sono poi tanti aspetti, perché prima che esistesse questo reato c'era appunto la diffamazione, ma c'era anche l'estorsione, perché se tu mi fai una foto, io ne vengo in possesso perché me la mandi oppure te la rubo, io ti posso anche minacciare, ti minaccio di metterla in giro, intanto tu mi fai questo e mi fai quest'altro, che possono essere soldi o favori, eccetera. Questa è estorsione, ok? Sì. Quindi si inserisce già in un quadro normativo esistente. Mi succede, cosa faccio? Mi posso rivolgere subito a delle associazioni che mi tutelano, ho un supporto psicologico, parlo con altre persone a cui è successo, cerco di capire come reagire, perché la vergogna ti uccide in alcuni casi. Ci sono state delle mutilazioni, che sicuramente ne avete parlato, devastanti, sì, e irrimediabili, vite rovinate, perché ovviamente va sulla bocca di, cioè tutti la vedono queste immagini, ti riconoscono, voglia farti la tinta e metterti le lenti a contatto colorate, cioè ti riconoscono e tu hai una vita rovinata. E poi ci sono anche delle associazioni legali più specifiche rivolte a questo tipo di mondo, no? Aspetta, si chiama Chi odia paga. Chi odia paga, hanno anche degli avvocati ed è interessante. Comunque Io dico questo perché non è che poi tutti si possono permettere di andare da un legale a livello di tempo, a livello di soldi. Sicuramente è una, sono degli strumenti, ma la prima cosa da fare è cercare di rimuovere l'immagine e bisogna agire in fretta. Questo poi succede per la maggior parte, questa dinamica cosiddetta appunto revenge porn, ma che non è una bella espressione, accade, cioè la percentuale più alta è fra i giovani. Sì. E quindi per fortuna lì c'è anche la c'è la fattispecie del cyberbullismo. Mm-hmm. Che tutela moltissimo, ci sono anche degli strumenti civilistici, per cui ci sono provvedimenti d'urgenza che bloccano la dinamica, insomma, della pubblicazione delle foto, e riescono a toglierla, si può chiamare il garante, chiedere che venga eliminata l'immagine, insomma ci sono degli strumenti, qualcosa si può fare, sicuramente parlare con una persona che ne sa e che sa tempestivamente come agire è la cosa che io consiglio più di tutte. Grazie Virgi, direi che sei stata molto chiara e precisa e mi è piaciuto il tuo intervento, sinceramente, veramente. Grazie a voi per l'ascolto. Grazie, perché non è facile districarsi in questo ambito, quindi direi che è stato fondamentale il tuo intervento. Sì, assolutamente. Grazie mille. Grazie Virgi. Buon proseguimento. Un abbraccio. Anche a te, buona ciao. Serata. Ciao Virgi. Buona serata. Ciao. Allora, caspita, non è facile. No, ma Virginia è stata chiarissima e anche, come dicevi tu, riesce a rendere alcune informazioni più leggere, tra virgolette. Sì. E adesso per smorzare un attimino e avvicinarci alla fine della nostra puntata di oggi. Vuoi annunciarlo tu, Marti? Sì. Allora, adesso ascolteremo insieme il mitico Renato, Sorcino de Roma, con Mi Vendo. Poi conclusione del programma e saluti, ma state con noi fino alla fine. A tra poco. Un altro inventario, smonto la baracca e via, cambio zona, itinerario, il mio indirizzo è la follia, c'è un infelice ovunque vai, voglio allargare il giro dei clienti miei, io vendo desideri e speranze in confezione spray. Seguimi, io sono la notte, il mistero, l'ambiguità, io creo gli incontri, io sono la sorte, quell'attimo di vanità, incredibile se vuoi, seguimi e non ti pentirai, sono io la chiave dei tuoi problemi, guai. Senza di me, non è l'anima tua che io cerco, io sono solo più di te, nell'arco di una luna io farò di te un baro, pure un re. Sono io la chiave dei tuoi problemi, guarisco i tuoi mali, vedrai, mi vendo la grinta che non hai. In cambio del tuo inferno ti do due ali. Ti do quello che il mondo distratto non ti dà. Io mi vendo e va, a buon prezzo si fa. Davo, mi vendo, mi vendo la grinta che non hai. In cambio del tuo inferno E da una Virginia passiamo a un'altra Virginia, esattamente Virginie Despont, che Giulia ha preparato per noi stasera e ci leggerà un pezzo della Despont tratto dal libro King Kong Theory. Bravissima, che pronunce fantastiche. Sì, soprattutto il francese che è proprio la mia lingua. No, te la sei cavata bene. No, io ci tenevo anche a dare il solito contributo, cioè non che finora non ci sia stato assolutamente, ma mi piace ricorrere alle nostre femministe di riferimento e ultimamente io mi sono follemente innamorata di questa donna proprio perché ha una capacità di essere diretta che ben poche altre persone, credo, nello scrivere un testo politico di fatto. È uno stile tutto suo e a me piace molto personalmente, quindi vabbè, non è la prima volta che ve la leggo in radio, vi dovete un po' adeguare al momento, poi tra un po' cambierò. Però appunto lei in questo libro affronta alcune tematiche politiche e ho deciso di prendere questo piccolo pezzettino nel capitolo in cui lei parla della violenza e dello stupro in particolar modo, e direi che è abbastanza lampante tutta anche la questione della struttura patriarcale in cui viviamo, del fatto che viene sempre comunque affibbiata la responsabilità alla donna. E beh, però se eri vestita così, ma se quella foto te la sei scattata, insomma, tanto alla fine il circolo si chiude più o meno sempre là, a chi lo dice un po' più forte, a chi magari comunque lo pensa. E lei, diciamo che rimanda un po' al mittente anche queste cose, e quindi volevo leggerlo, spero di riuscirci, non emozionarmi troppo. Parla appunto della condizione femminile. Sempre colpevoli di quello che ci fanno. Creature ritenute responsabili del desiderio che suscitano. Lo stupro è un programma politico preciso. Ossatura del capitalismo è la rappresentazione cruda e diretta dell'esercizio del potere. Designa un dominante e stabilisce le regole del gioco in modo da consentirgli di esercitare il suo potere senza restrizioni. Rubare, strappare, estorcere, imporre, che la volontà si eserciti liberamente e che goda della propria brutalità, senza che la parte avversa possa opporre la benché minima resistenza. Godimento nella distruzione dell'altro, della sua parola, della sua volontà, della sua integrità. Lo stupro è la guerra civile, l'organizzazione politica tramite la quale un sesso dichiara all'altro. Mi arrogo tutti i diritti su di te. Ti costringo a sentirti inferiore, colpevole e degradata. È lo stupro la specificità dell'uomo, non la guerra, la caccia, il desiderio brutale, la violenza o la barbarie. Lo stupro che le donne finora non si sono mai appropriate. La mistica maschile deve essere costruita come se fosse per natura pericolosa, criminale, incontrollabile e in quanto tale rigorosamente sorvegliata dalla legge, disciplinata dal gruppo. Dietro lo schermo del controllo della sessualità femminile appare lo scopo primo del politico: attribuire al virile un carattere asociale, pulsionale, brutale. E lo stupro serve in primo luogo da veicolo a questa constatazione. Il desiderio maschile è più forte dell'uomo, che non è in grado di dominarlo. Si sente ancora dire spesso: grazie alle puttane ci sono meno stupri. Come se i maschi non potessero trattenersi, come se da qualche parte dovessero comunque scaricarsi. Una verità politica costruita di sana pianta e non l'evidenza naturale, pulsionale, che ci vogliono far credere. Questo appunto anche sull'aspetto della sessualità, appunto, come dicevamo anche prima, è qualcosa che non si può controllare. Insomma, ritorniamo al discorso dell'educazione, che forse bisognerebbe agire prima. E poi invece nell'ultimo capitolo, quello dove parla proprio di questa teoria, insiste molto sul concetto di responsabilità. Lei è nostra contemporanea, vabbè, è un po' più grandicella, vive in Francia e quindi parla anche della società francese. Troie e un ministro della cultura, una donna di quella sinistra lì, la sinistra sottile, dichiara che un artista dovrebbe sentirsi responsabile di quello che mostra. Non sta agli uomini sentirsi responsabili quando ci si mettono in tre per stuprare una ragazza. Non sta agli uomini sentirsi responsabili quando vanno a puttane e poi non votano le leggi perché quelle puttane possano lavorare tranquille. Non sta alla società sentirsi responsabile quando non c'è film in cui non si vedano donne nella parte di vittime delle violenze più atroci. Sta a noi sentirci responsabili di quello che ci capita, di rifiutarci di morirne, di volerci convivere, di dire la nostra. La conosciamo bene, la solfa secondo cui dovremmo sentirci responsabili di quello che succede. Su Elle, recensendo un altro libro sullo stupro, niente a che vedere col mio, una imbecille qualunque ne sottolinea la dignità del discorso e si sente in dovere di contrapporlo ai vagiti da me prodotti. Non sono abbastanza silenziosa come vittima. La questione merita di essere segnalata su una rivista femminile. È un consiglio alle lettrici. Lo stupro, d'accordo, è una cosa triste. Però piano coi vagiti, signore. Non sono abbastanza dignitosi. Vaffanculo. Su Paris Match, stessa tecnica. Per dire alla figlia di Montand che farebbe meglio a tacere, un'altra imbecille evoca la classe di Marilyn Monroe, che lei sì ha saputo essere una buona vittima. Leggi. Dolce, sexy, garante del silenzio. Capace di chiudere il becco quando la facevano circolare a quattro zampe durante sordide orge. Consigli di donne, tra loro, una ghiottoneria. Nascondete le vostre ferite, signore, potrebbero infastidire il torturatore. Essere una vittima dignitosa, vale a dire che sappia tacere. La parola sempre confiscata. Pericolosa, l'abbiamo capito. Perché disturba il sonno di chi? Giulia, come mai hai scelto questo testo? Beh, in realtà ci sono tantissime altre cose che fanno riferimento anche a quello che abbiamo approfondito stasera. E lei appunto ha vissuto una vita, vabbè, ancora viva ovviamente, però è stata parecchio intensa. E io trovo veramente, da un lato coraggioso, ma dall'altro anche estremamente lucido, il fatto di portare la propria vita così proprio davanti a tutti e usarla come anche strumento politico. Le proprie esperienze sono uno strumento politico con cui denunciare, lottare, e direi che è una donna estremamente, mi viene da dire, bella, ma non bella fisicamente, bella proprio nella sua interezza. E anche la capacità di scrivere così crudamente però colpisce. Certo. Questo direi che non gira intorno al punto. No, questo direi che è arrivato chiaro e diretto. E sì. Mi piace che appunto si rivolge anche alle donne nei confronti, insomma, la solidarietà, la sorellanza, non fate il gioco del patriarcato, questo è anche un altro messaggio importante, vabbè si discosta un po' dalla tematica di oggi, però insomma è importante. Assolutamente, direi che è fondamentale. Noi direi che purtroppo abbiamo finito per oggi, ma le ribelli tornano tra una settimana. Sì. Però io direi adesso lanciamo una canzone per farci sentire ovunque. E poi ci salutiamo. E poi ci salutiamo per bene con tutti quanti i nostri recap, proprio dove trovarci, come, perché. Sì, perché lo volete sapere, lo sento. Lo vogliono sapere tutti, sì. E niente, dai. E soprattutto perché c'è Lorenzo che ci sta controllando e dobbiamo dirgli. Sì, sì, era già pronto a usare il ditino e dire vi siete dimenticate. Invece no, noi siamo troppo brave. Quindi al momento vi lanciamo una bella canzone, speriamo di aver seguito un po' l'esempio della prossima cantante facendoci sentire stasera. E mostrate l'ombelico in suo onore. Ed ecco a voi Raffaella Carrà. Stiamo arrivando, cioè siamo in chiusura. Esatto, però Sì, ci è arrivato un messaggio molto interessante che è uno stimolo per noi, quindi ringraziamo Giulia, possiamo dirlo, che ci chiede: avete mai trattato in radio il tema del poliamore? Non so bene come definirlo sinceramente e nemmeno se ci siano termini più corretti. Dato le tematiche di inclusione, di nuovo per abbreviare, sono preferenziali, mi pare di capire. Se sì, ne sarei curiosa. Quindi direi che ci è arrivato proprio dritto dritto al cuore, allo stomaco, uno stimolo gigante. Soprattutto allo stomaco. E voi, noi vi invitiamo in realtà a mandarci messaggi di questo tipo. C'è un numero di telefono attivo della radio? No. Falso. Quindi, era... no, però, esatto, però potete scrivere alla pagina Facebook della radio. C'è un canale anche Instagram e anche a Degenerazione, volendo, o ad altri gruppi. Scusa. No, perché secondo me ci sta. Scriveteci, mandateci degli Questo si stimoli. Chiama freestyle, secondo sì. me. Grande Marti. Perché noi comunque siamo aperte e aperti ad accettare e invitarvi anche a partecipare attivamente a questo programma. Quindi con le telefonate... ora da casa, ma in un futuro anche qui in diretta con noi, e se avete degli stimoli quindi dovete mandarceli assolutamente, perché noi ci prepareremo ma insieme a voi, quindi non è un programma chiuso, anzi è un programma super aperto. Sì sì, scriveteci sulla pagina Facebook, e quello al momento utilizzate è il modo più diretto proprio per comunicare. Grazie Giulia che ne ha approfittato, finalmente Brava. Qualcuno ci scrive. E sì, sul poliamore ci sarebbero vagonate di cose da dire, opinioni, cose. E... noi non ne abbiamo parlato, quindi ben venga, insomma, lo potremo fare. Sì, esatto. E, basta. Beh, Instagram, direi... Telegram, sì. Facebook, ci siamo. E seguiteci, noi torniamo con le ribelli giovedì prossimo. E salutiamo le DJ e DJ Utopia che ci hanno fornito tutte queste tracce meravigliose. Tra l'altro alcune le lasceremo in coda in chiusura. Sì, quindi se voi lasciate la radio accesa sentirete le altre tracce selezionate dalle nostre DJ. Radio ZM vi terrà compagnia anche nei prossimi giorni. Informatevi sui programmi che ci sono, che sono sicuramente super interessanti e che ci terranno compagnia in queste giornate. Da qui è tutto, direi. Grazie a tutte le persone che hanno partecipato a questo programma, anche quelle che non sono intervenute e di cui non avete sentito la voce, ma che hanno contribuito a formare questo programma su questo tema. Questa puntata. Importantissima. Importantissimo. E ci sentiamo poi giovedì prossimo. Buona settimana e buona serata. Sembra un angelo caduto dal cielo, come vestita quando entra il sassofono blu, ma si annoia appoggiata a uno specchio, tra fanatici in pelle che la scrutano senza poesie. Sta perdendo, sta perdendo, sta perdendo, sta perdendo. Sta perdendo, sta perdendo, sta perdendo, sta perdendo tempo. Una sera incontrò un ragazzo gentile. Lui quella sera era un lampo e guardarlo era quasi uno shock. E tornando, e tornando, e tornando, e tornando. E tornando, e tornando, e tornando, e tornando a casa. quella volta lei lo perse di vista. Disperata lo aspetta ogni sera il sassofono blu. Una notte da lupi lei stava piangendo. Quella notte il telefono strillò come un gallo. Sta chiamando, sta chiamando, sta chiamando, sta chiamando. Chiamando, sta chiamando, sta chiamando, sta chiamando lui. Sembra un angelo caduto dal cielo. Quando si incontrano toccarsi